l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. I voci sono venuti tra noi, siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Ave Maria a tutti, ragazzi e ragazze, carissimi in ascolto su Radio Buon Consiglio, e ben ritrovati sulle frequenze di questa nostra amatissima radio mariana. Siamo tutti quanti nella gioia fervida, scusate, e nell'attesa di poter celebrare la solennità dell'Assunta. Siamo ormai giunti all'antivigilia e per la nostra carissima radio c'è anche l'altra importante festa che ricorre domani, che è appunto la festa di San Massimiliano Maria Kolbe, a cui tutti dobbiamo un grande tributo di riconoscenza per quanto ha scritto sulla devozione all'Immacolata e sull'importanza del servizio gioioso e generoso alla Madonna. Quindi il mio primo augurio è che tutti ci stiamo preparando bene a questa importantissima festa mariana di mezza estate e che essa possa produrre copiosi frutti, soprattutto di gioia, ecco, oltre che di benedizione, nel cuore di ciascuno di noi. Ecco, nel nome dell'Assunta, oggi con l'aiuto di Dio, finalmente cercheremo di mettere la parola fine a questo lungo excursus che ci ha tenuto occupati per diverso tempo sul sesto comandamento, chiudendo con l'ultima tappa del nostro itinerario, che penso ricorderete a suo tempo avevamo diviso in quattro parti che abbiamo cercato di scandagliare dettagliatamente una per ciascuna. Scusate un istante. Le quattro parti erano le seguenti. I peccati impuri contro la santità del matrimonio, che vedemmo a suo tempo, uno fra tutti, tanto per fare qualche esempio, l'adulterio, il principale. I peccati contro la vita come frutto naturale dell'amore umano, per esempio la contraccezione. Le impurità consistenti in aberrazione della legge naturale, ecco, che abbiamo visto nel peccato impuro contro natura, su cui soltanto è necessario fare una piccolissima postilla, che non ricordo se ho lambito anche questo argomento, e infine le profanazioni della santità del corpo umano in quanto tale, che abbiamo introdotto la settimana scorsa con il tema della pornografia e che oggi concluderemo trattando della idolatria del corpo, oggi così diffusa, e del peccato impuro solitario, anch'esso oggi diffuso e purtroppo anche su questo, ahimè, qualche volta anche con qualche connivenza, a quanto pare, da parte di qualche sciagurato e ministro di Dio che su questa materia tende un po' a scivolare verso la minimizzazione o verso uno sterile buonismo che non fa del bene alle anime, ma casomai se mal presentato le aiuta a precipitare verso il baratro. Ecco, a proposito del peccato impuro contro natura, io volevo ricordare con linguaggio possibilmente sobrio che oltre come dire alla manifestazione principale che il peccato impuro contro la natura ha e che vedremo a suo tempo essere l'omosessualità, c'è un'altra forma di cui devo parlare sempre per la mia esperienza in quanto sacerdote, perché non sempre da tutti, come dire, è percepita come tale. Cioè, nel senso, ripeto, io non voglio assolutamente imbarcarmi in questi argomenti scabrosi, né utilizzare linguaggi non consoni. Tanto per far capire però agli ascoltatori di che cosa sto parlando, è che alcuni tipi di peccato che sono tipicamente espressioni, o meglio, ordinariamente espressioni di un tipo di rapporto omosessuale, d'accordo? Si pensi per esempio a come al tipo di rapporto che hanno due omosessuali maschi, oppure ai tipi di rapporti che possono avere due omosessuali donne. Purtroppo, queste forme anomale, diciamo così, di accostamento sessuale, che nel caso dell'omosessualità sono, come dire, normali perché non esiste appunto la forma di accostamento naturale, che è l'unica, avrete capito, ormai lecita, appunto perché questo è proprio intrinsecamente impossibile, ma anche dentro un rapporto eterosessuale, quindi all'interno di un rapporto tra uomo e donna, si possono, oltre che a porre in essere i gesti che dentro il matrimonio sono nobili e buoni, come dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, porre in essere atti analoghi, e qui spero che capiate, a quelli che compiono tra di loro le coppie dello stesso sesso, perché si possono compiere anche in ordine in relazione a rapporti con persone dell'altro sesso. Ecco, qui bisogna fare attenzione perché questi tipi di rapporto sono lo stesso rapporti impuri contro natura, quindi non pensiamo subito immediatamente soltanto alla categoria dell'omosessualità. Tra l'altro, senza voler affatto minimizzare, una persona che nasce e vive con la tendenza omosessuale, che vive questa cosa, come dire, più polarizzata sul versante dell'innamoramento che su quello dell'esercizio della sessualità, può anche per certi aspetti essere più comprensibile e più moralmente, come dire, non dico scusabile, ma quasi. Che non magari una coppia eterosessuale che pone in essere dei rapporti contro natura, come per esempio accade nella schifosa rassegna del materiale pornografico. Quindi stiamo sempre attenti che i comportamenti possono essere molto molto disdicevoli anche all'interno di una coppia. Attenzione anche all'interno del matrimonio. L'esperienza di tanti sacerdoti attesta il fatto che poi, con estremo imbarazzo in alcune situazioni che in qualche modo vengono percepite con pesantezza di coscienza, a volte alcune povere anime, vergognandosi, fanno capire chiaramente, dice: ma sa, però è mio marito, però io mi sento male dinanzi ad alcune cose un po' particolari, dopo uno capisce. E non è che dentro il matrimonio queste forme, chiamiamole così, alternative, assumono o diventano lecite, assolutamente. Cioè, anche quello di cui parlavamo a suo tempo quando parlavamo dei rapporti prematrimoniali, quindi, come dire, quello che gli adolescenti chiamano il petting, quindi sono quelle forme, diciamo così, di ricerca reciproca del piacere sessuale senza però compiere l'atto coniugale, non sono lecite neanche all'interno del matrimonio, non sono lecite mai. Ecco. E quindi non è che siccome c'è il matrimonio, una cosa che è cattiva diventa buona. Ecco. Questo non c'è questa equazione. Ecco. E quindi la coppia su questo deve essere ben formata. E deve crescere perché anche dentro il matrimonio la sessualità va sempre impostata sull'amore e sul rispetto reciproco, quindi sul compimento santo e conforme alla volontà di Dio di ciò che attiene a questa materia. Ecco, io sinceramente non mi è venuto questo scrupolo, insomma, ripercorrendo un po' l'excursus perché non ricordavo se avevo in maniera possibilmente chiara, spero di essere stato chiaro, purtroppo e ripeto, la scabrosità dell'argomento non consente di andare più a fondo, non è il caso, non mi sembra. Quindi spero che chi voglia capire abbia capito, ricordando che questi sono argomenti che se ci sono state cadute su questo tema bisogna chiedere perdono al Signore, vanno confessate certamente con estrema sobrietà e asciuttezza, diciamo così, di linguaggio, senza indulgere a quanto mai inopportuni nonché umilianti particolari, però la specie va accusata, d'accordo? Quindi bisogna dirlo. Io lo capisco che è una cosa assai imbarazzante, e vi assicuro che è imbarazzante anche qualora qualcuno lo debba sentire dall'altra parte della grata. Però c'è il Concilio di Trento che nel decreto sulla penitenza ci ricorda che i peccati mortali vanno confessati per specie, non per genere, numero e circostanze. Quindi se c'è una specie specifica di questo genere, cioè avere un rapporto impuro contro natura dentro il matrimonio, è più grave per esempio del peccato di cui parleremo oggi, anche se commesso da una persona che è sposata, è molto più grave. Ecco, perché sono delle forme, diciamo così, di sessualità brutale, estrema, spinta, che degradano particolarmente la dignità dell'uomo e la santità del corpo umano e anche la santità dell'unione sessuale come pensata e come benedetta da Dio. Quindi purtroppo, ecco, bisogna dirlo, come si dice in queste circostanze, per non dover affrontare l'umiliazione di confessare alcune colpe particolarmente scabrose, c'è stata soltanto una cosa da fare, bisogna semplicemente non commetterle. Quindi se uno non le commette, come dire, risolve questo imbarazzante inconveniente che poi purtroppo bisogna necessariamente affrontare. Ora, il nostro itinerario è stato lungo semplicemente perché ricorderemo che la Madonna Fatima, oggi è 13 agosto, sapete che 13 è il numero di Fatima, anche se il 13 agosto ricordo che i pastorelli fu quell'apparizione in cui furono portati in galera dal sindaco di Fatima, se non ricordo male, quindi sì, si ricorda come 13 di agosto, in realtà dovrebbe essere proprio quella di agosto, credo, spero non quella, sì, dovrebbe essere la quarta, quella di agosto, in realtà mi pare che fu posposta al 15. Comunque la Madonna Fatima ebbe modo di esprimere grosse preoccupazioni su questa materia, dicendo che i peccati che portano più anima all'inferno sono quelli della carne, chiedendo per questo, anche per questo, se non principalmente per questo, a quegli eroici piccoli pastorelli, un surplus di preghiera e di penitenza, appunto riparatrice, ecco perché questi brutti peccati, tra l'altro, vanno riparati, no? E anche alcune cose un po' forti che si leggono nelle biografie dei pastorelli, alcune penitenze che a noi potrebbero sembrare un po' eccessive, estreme o comunque sicuramente inadeguate alla giovanissima età di quei fanciulli di 7, 8, 11 anni, vanno comunque lette dentro questo orizzonte. Cioè, dobbiamo sempre ricordare che la penitenza ha come fine, tra gli altri, quello di riparare il peccato commesso, per cui vi faccio qualche esempio, l'ho fatto in altre circostanze, però tanto per chiarirci. Se uno non è andato a messa la domenica, la penitenza migliore da fare è andare a messa in un giorno in cui non si è obbligati, per esempio. Se uno è stato carente nei propri impegni, almeno minimi, di preghiera, la penitenza adeguata è fare qualche preghiera in più. Se uno ha rubato, questo è obbligatorio, per esempio, nel catechismo della Chiesa Cattolica, la penitenza è la restituzione di quello che si è rubati, se si può restituire al destinatario, altrimenti bisogna comunque fare un'elemosina e di una cifra di denaro che sia più o meno equivalente al bene o ai soldi che si sono rubati. Ora, qual è la penitenza per il peccato impuro? Il peccato impuro qual è, in che cosa consiste? Consiste nel prendersi un piacere violento, un piacere venereo, un piacere estremo, fuori della legge di Dio. Quindi, ovviamente, qual è l'azione uguale e contraria, volta a riparare questo tipo di peccato? È privarsi di un piacere in teoria lecito, per amore di Dio, oppure accollarsi una sofferenza sensibile, quindi fisica, sempre per amore di Dio, per compensare appunto questa uscita che si è fatto dalla sua legge per andare a soddisfare un istinto basso fuori della sua volontà. A noi, io lo so benissimo che questo discorso è sgradevole a tante orecchie, è sgradevole anche alle mie, perché tutti quanti saremmo contenti. In questo senso dobbiamo anche guardare ad alcuni aspetti un po' forti e inquietanti della passione di nostro Signore, cioè nostro Signore è stato brutalmente flagellato. Terminata la flagellazione, era irriconoscibile per come lo avevano ridotto. Noi dobbiamo pensarci a questo. Come mai è stato massacrato in quel modo inumano e disumano? Se andate a leggere gli interpreti della Passione di nostro Signore Gesù Cristo o le Vie Crucis, tipo del mio grande omonimo San Leonardo da Porto Maurizio, tutti danno la versione unanime. A causa dei peccati di impurità, a causa dei peccati di impurità, a causa dei peccati di impurità. Quindi ecco perché i pastorelli facevano tipo come penitenze del cingersi la vita con una corda grossa. Portandola tipo cilizio oppure facendo dei digiuni, come dire, un po' fuori del comune, nel senso che uscivano di casa, trovavano un povero, gli davano la merenda, il pranzo, stavano tutto il giorno senza mangiare e senza bere. Oppure, questa è una cosa che faceva specialmente Francesco, quando stavano in campagna e trovavano un pochino di ortiche, si faceva un fascio di ortiche e, come dire, si flagellava le gambe con le ortiche. Sono cose che sono successe, guardate che dal cielo nessuno mai gli ha detto che stavano facendo qualcosa che non andava. L'unica cosa che la Madonna una volta gli disse è che nell'eccesso di zelo e di amore questi fanciulli, per esempio, portavano sta corda alla vita legata in maniera molto stretta, sia di notte che di giorno, in modo tale che così la notte non riuscivano a dormire. E la Madonna gli disse: guardate, Dio è contento di quello che fate, però di notte toglietela. Non gli ha detto di toglierla del tutto. Io mi ricordo la prima volta che lessi questa cosa, rimasi abbastanza sconvolto. Gli ha detto di toglierla di giorno. Scusate, gli ha detto di toglierla di notte. Quindi significa che di giorno Dio gradiva che la portassero. Ripeto, sempre fanciulli di questo genere. Questo a volte, se non riusciamo, diciamo così, ad interiorizzare l'importanza di alcuni valori nelle maniere ordinarie, sarà necessario farlo in qualche altra maniera. Voi capite anche che oggi come oggi, quale confessore, capisce che può dare al penitente una penitenza di questo genere? Già dare un digiuno, è cosa molto rara, anche se molte volte sarebbe, necessaria, perché tu c'hai dinanzi una persona debole, piccola, che capisci che è già un miracolo che si sta confessando. Allora qui c'è poi il Santo Curato d'Ars che ai preti coscienziosi dice: guardate, date la penitenza più piccola e poi fatela voi per i vostri penitenti, ma quella è la penitenza che bisogna fare, quella o qualcuna del genere. Ecco, quindi questo per comprendere anche l'importanza, quindi se qualcuno di noi ascoltatori magari qualche volta fa qualche digiuno o cose di questo genere, che non sono assolutamente passate di moda, oppure, come qualcuno vorrebbe far credere, inutili, inopportune o addirittura peccaminose, perché sarebbe una sorta di affronto alla passione di nostro Signore, sarebbe come dire che le sofferenze di Gesù non sono bastate. Mi raccomando, stiamo sempre alla larga da simili sciocchezze. Ci pensi, ecco perché immaginate quanti peccati impuri si fanno oggi, ogni giorno, anche a proposito di ciò di cui parleremo oggi, per comprendere quanto impellente quanto grande sia il bisogno di fare penitenza e di riparare tutte quante queste colpe. Quindi magari ci fossero tante anime generose che nel segreto e nel silenzio, ecco, offrissero con grande carità e con grande amore qualche mortificazione e qualche penitenza, anche sensibile, per riparare questi peccati. Ecco, per il principio della comunione dei santi. Guarda che cosa bella che hanno fatto anche questi pastorelli, no? Gli altri peccano e senza che lo sappiano, c'è un fratellino piccolo cristiano che sta offrendo al Signore una penitenza per la tua conversione e per riparare i danni che hai fatto tu. Vedete quanto è bella la carità cristiana, questo ci rende molto simili al nostro Signore, no? Il nostro Signore in fondo non ha fatto altro che offrirsi in sostituzione vicaria, così si dice in termini teologici, per pagare e accollarsi le conseguenze dei peccati non suoi, perché i peccati li abbiamo fatti noi, non lui. Quindi chiunque avrà questa carità, che è molto grande perché è correlata dal fatto che noi non sappiamo per quali anime vanno le nostre penitenze, non sappiamo se chi e quando qualcuno magari si è convertito per un nostro piccolo sacrificio, cose che accadono, le sapremo in paradiso, le sapremo. Ecco, qui in questo mondo le lasciamo nel nascondimento, presentandole al Signore che comunque guarda e vede questa forma di carità. Stare attenti, e quando si parla di carità, le forme più alte di carità sono queste. Quindi offrire preghiere per gli altri e offrire penitenze per gli altri. Tant'è vero, stiamo nella novena dell'Assunta, San Massimiliano, diciamo, che elaborò la sua alta dottrina mariana partendo dalla straordinaria dottrina monfortana della Santa Schiavitù d'Amore. La Santa Schiavitù d'Amore in effetti non è altro che un'offerta di tutto se stessi alla Madonna, affidando e consegnando nelle sue mani in particolare il valore meritorio delle preghiere e delle soddisfazioni che si fanno, che si consegnano alla Madonna, perché l'anima non vuole che si applicano per se stessi, ma li dà alla Madonna perché li applichi e li offre al Signore per espiare i peccati di qualcuno, per la conversione di chissà lei, eccetera, eccetera. E questo atto è definito in letteratura spirituale l'atto eroico, appunto perché comporta un esercizio fuori del comune della carità. Ecco, quindi questo per dire, quando si parla di carità non pensiamo sempre soltanto alla forma più bassa e ultima di carità, per carità, scusatemi il gioco di parole, anch'essa doverosa, tipo le opere di misericordia corporale, no? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, cose fondamentali. Ecco, più importante del nostro corpo è la nostra anima, quindi ciò che si dà per la salvezza di un'anima è molto più grande di ciò che si dà o che si fa per la salvezza e per il benessere di un corpo. Quindi stiamo dinanzi ai peccati che portano più anime di tutte all'inferno. Sentenza questa di Fatima confermata dalla testimonianza, non mi ricordo se nel corso di questo incontro vi ho accennato, di un noto esorcista salesiano, morto in concetto di santità, Don Giuseppe Tomaselli, che a quello che racconta, durante un esorcismo gli fu detto che tutti gli abitanti dell'inferno, nessuno escluso, erano macchiati di questa colpa. Gli fu detto che i dannati si erano dannati per tante motivazioni, cioè molti dannati hanno tanti peccati mortali, le bestemmie, gli aborti, non lo so, gli omicidi, le profanazioni dei sacramenti, eccetera. Però il minimo comune denominatore di tutti quanti i dannati, cioè quello che hanno tutti, a volte alcuni hanno solo questi, altri hanno questi e altri, è il peccato impuro. Quindi pensate a quanto danno e quanto male fa questo peccato. Ora, per introdurci, anzi, co cominciare ad affrontare il tema di oggi, dobbiamo riprendere un passo biblico che credo a suo tempo abbiamo presentato e sia pur fugacemente commentato, che riguarda appunto la santità del corpo umano. Ed è un passaggio della prima lettera ai Corinzi di San Paolo, apostolo, che senza mezzi termini e con estrema chiarezza proclama la santità e l'inviolabilità del corpo umano. Ecco, adesso comincia la citazione. si tratta del capitolo 6, il versetto 13, una parte del versetto 13 e poi versetti 19 e 20. Cito testualmente: il corpo non è per l'impudicizia, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Questa è l'affermazione forte e di principio di San Paolo. San Paolo afferma che il corpo è tempio dello Spirito Santo, un'espressione molto molto importante che pone questa grande analogia. Cioè, noi abbiamo i templi di mura, le chiese, che sono abitate realmente, speriamo che tutti ci crediamo, da nostro Signore Gesù Cristo, che è realmente presente, come tutti sappiamo e crediamo, nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. E ora, il nostro corpo non ha sempre la presenza reale dell'Eucaristia, anche se a volte ce l'ha, perché facciamo una comunione, ma ha e dovrebbe custodire intatta ed integra sempre l'inabitazione, così si dice in termini tecnici e teologici, dello Spirito Santo. Cioè, nel momento in cui noi veniamo battezzati, riceviamo dentro di noi quella che si chiama la grazia santificante, che non è altro che la presenza abituale, stabile, dello Spirito Santo con tutti quanti i suoi doni e le sue virtù in noi. Questa presenza dura in maniera come dire, costante e continua, fino a quando non viene contristata, così si dice, e scacciata da un peccato mortale. Come San Paolo spiega, il peccato come dire, mortale più completo, anche se non più grave, è quello impuro, perché coinvolge la totalità della persona, perché tocca non soltanto le facoltà, come dire, spirituali, d'accordo? Ma coinvolge la totalità della persona nell'esercizio anche degli atti corporei impuri, che costituiscono una profanazione diretta di questo tempio. Quindi questo è lo sfondo, diciamo così, teologico all'interno del quale cominciare la trattazione del tema di oggi, che vi ripeto, adesso faremo una piccola pausa con la regia dell'Ave Maria, è dedicato all'idolatria che oggi si ha di questo benedetto corpo, benedetto perché comunque da Dio creato, e appunto tempio dello Spirito Santo, e ad una delle sue, diciamo così, varianti molto comuni, molto diffuse, che è quella del peccato impuro solitario. Facciamo una piccola pausa e di preghiera comune, dato che sono le 17, vi invito ad unirvi a me nella recita dell'Ave Maria, ecco, nell'ora in cui la Madonna apparve a Santa Caterina Labouré a Rue de Bac nel 1830. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, riprendiamo. Alla luce di quanto insegnato da San Paolo, possiamo tranquillamente affermare che il corpo umano di un battezzato ha dunque, oltre alla naturale e intrinseca dignità che inerisce al fatto di essere persona umana in quanto tale, quindi il nostro corpo è, come dire, informato, così si dice, è abitato dall'anima razionale creata da Dio. Questo è il fondamento della dignità inalienabile e intrinseca di ogni essere umano in quanto tale, a prescindere da qualunque tipo di distinzione, appartenenza religiosa, fede, non fede, cattolico, protestante, ebreo, musulmano, quello che volete, eterosessuale, omosessuale, transessuale addirittura, d'accordo? Quindi ogni essere umano in quanto tale ha una dignità intrinseca che deve essere da tutti rispettata, unica ed inviolabile. Perché dove c'è un essere umano c'è la mano di Dio. Però un battezzato ha, come dire, un ulteriore titolo di onorabilità. È come quando si parla della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. L'obiezione dico, ma Dio è presente tutto e dappertutto, non è vero? Certo che è vero, Dio è presente tutto e dappertutto, come dice il Catechismo di San Pio X, Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, però l'intensità di questa presenza non è uguale dappertutto, perché nel cosiddetto cielo empireo, cioè nel luogo, diciamo così, secondo il nostro modo di parlare, dove Dio proprio abita, dove è contemplato e beato, è chiaro che Dio è presente maggiormente che non qui dal luogo dove vi sto parlando. Così nel Santissimo Sacramento c'è la presenza vera, reale e sostanziale di Gesù Cristo in persona, che qui dal luogo dove vi sto parlando non c'è, perché qui non ci sta l'Eucaristia. Quindi qui Gesù Cristo è presente in quanto Dio come seconda persona della Santissima Trinità, ma qui adesso Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, non c'è, perché non c'è l'Eucaristia. Allora, analogamente a quanto detto per quanto riguarda questo mistero, ogni essere umano ha una dignità propria intrinseca che gli deriva dal fatto dell'essere umano, no? Così come Dio è presente in cielo e in terra in ogni uomo. Ma il battezzato ha una dignità, come dire, grandissima per il fatto che dentro di lui, a causa dei sacramenti, c'è l'abitazione dello Spirito Santo, così come nell'Eucaristia è presente Gesù Cristo in persona. D'accordo? La grazia santificante di cui abbiamo parlato prima della pausa. Quindi, se tutti i corpi umani devono essere trattati con dignità e con rispetto, il corpo umano di un battezzato deve essere trattato con dignità e con rispetto due volte. D'accordo? Quindi, di questi tempi si sente di meno, no? A volte qualcuno ha qualcosa da dire su alcune affermazioni, no? Cioè, io posso chiamare fratello alla luce del primo aspetto di ciò che vi ho... ogni essere umano è mio fratello. In che senso? Nel senso che come io sono stato creato dal Padre Eterno, così l'ultimo essere umano sperduto nell'ultimo posto della terra è mio fratello, in quanto è stato creato dal Padre Eterno. D'accordo? State attenti che il fondamento della fratellanza universale è questo, cioè la coscienza della comune nostra origine, che per noi credenti dovrebbe essere forte, non altre motivazioni alternative messe in giro fin dai tempi della Rivoluzione Francese e da vari movimenti massonici o cose di questo genere, che oggi vorrebbero rientrare in giro alle nostre legislazioni. Però quando io celebro la messa e saluto i miei fedeli, dico: fratelli carissimi, per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Loro li sto chiamando fratelli a un titolo più forte, perché oltre che fratelli, come dire, in Dio, perché tutti da Lui siamo stati creati, noi siamo fratelli in Cristo, perché noi siamo credenti, cristiani, cattolici, praticanti, e si spera tutti quanti in grazia, si spera, capite? Quindi, ecco, quindi la buona formazione consente sempre, quindi un non cristiano è mio fratello, certo, ma un cristiano è mio fratello a doppio titolo, ecco, non so se quindi questo senza degradare o penalizzare chi non ha la stessa condivisione della mia fede, tuttavia consente un rapporto più solido e più forte con chi questa fede la condivide. E consente anche di fare qualche piccola differenza, perché non è la stessa cosa essere battezzati, avere la grazia santificante, che non averla. Punto. C'è una differenza sul piano filosofico, si dice, anche da un punto di vista ontologico, no? Quindi, vabbè, adesso non è il caso di approfondire questo discorso. Comunque, questo è il fondamento della dignità di un cristiano. E quindi abbiamo visto che il corpo umano è analogo in questo senso a un tempio, cioè come nel tempio è presente l'Eucaristia, così nel corpo umano di un battezzato è presente lo Spirito Santo. Quindi c'è questa doppia appartenenza, questa doppia presenza, d'accordo, di Dio. Una in quanto Dio e un'altra attraverso quella forma specifica che è la grazia santificante. Allora, voi sapete anche, ne abbiamo parlato a suo tempo, che dentro una chiesa alcuni atti indegni diventano doppiamente indegni perché sono fatti all'interno del luogo sacro, con il gravissimo peccato, di cui parlavamo a suo tempo, di profanazione. D'accordo? Ecco, allora per un figlio di Dio un atto turpe, basso e vergognoso, degradante la sacralità e la santità del corpo umano, diventa, dentro questa prospettiva, molto grave perché rappresenta la profanazione di ciò che è abitato dallo Spirito Santo. E infatti la dottrina della Chiesa ti insegna che con un peccato mortale, e vi ricordo quello che abbiamo visto a suo tempo per quanto riguarda il sesto comandamento, cioè che in re venerea non datur parvitas materia, cioè ogni peccato impuro commesso in questa materia è sempre un peccato mortale. State attenti alle cose che vengono dette in giro oggi su questo argomento, perché a quanto riferiscono io mi voglio sempre rifiutare di crederci, fino a quando non le sento con le orecchie mie, perché sarebbe assai meglio che molti mentissero, piuttosto che dicessero la verità sul fatto che il prete X dice che non è vero, il prete Y dice che non è vero. Io voglio sempre sperare che il prete abbia capito male, che il fedele abbia capito male, che si siano espressi malamente e che non ci siano induzioni in errore su cose così gravi. Ecco. Quindi, ecco perché bisogna stare attenti a questo peccato, perché se io commetto un peccato impuro, ipso facto, quello è un peccato mortale, d'accordo? O quantomeno un peccato sempre grave. E quindi lo Spirito Santo se ne va. C'è la perdita della grazia. Per questo che bisogna confessarsi prima di fare, perché bisogna confessarsi prima di fare la comunione? Perché tu non stai più in grazia. E il sacramento dell'Eucaristia è cosa riservata, secondo il linguaggio del Nuovo Testamento paolino, ai santi. I santi nel linguaggio paolino non sono, come li intendiamo noi oggi, santi canonizzati in senso stretto, cioè quelli che hanno praticato le virtù cristiane in grado eroico, ma i santi sono coloro che sono stati santificati dalla grazia, grazia che abbiano nel loro cuore e che non hanno perso commettendo altri peccati. Ora, come abbiamo visto la volta scorsa, la pornografia compie tale profanazione in modo assolutamente spudorato, violento ed esecrabile. Ecco, ma come dire, vicina alla pornografia come stile è oggi il nudismo dilagante e imperante, che non si può più guardare in giro. Cioè, io lo capisco che questi giorni, stiamo agosto, si muore di caldo, ecco, ma non è assolutamente possibile vedere dei costumi che oggi sono scesi a un livello, non costumi da bagno, costumi, sto dicendo costumi sociali, quindi modi di vestire, che ormai sono diventati assolutamente normali e che normali non sono, perché siamo andati sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso. E tante volte ho detto, non voglio ripetere sempre le stesse cose, che nemmeno le chiese sono risparmiate da questo, perché mica tutti ci arrivano a capire che almeno in chiesa non devi metterti la canottiera, non devi entrare con i toppini, con le spalle completamente nude, con la schiena mezza nuda, o con i pantaloncini corti, troppo, o con le minigonne così. Non ci arrivano tutti, complicando enormemente la vita ai poveri preti, a cui il vescovo, quando li nomina parroco, gli consegna le chiavi della chiesa, dicendogli: guarda, quello che accade qua dentro accade sotto la tua responsabilità e quindi tu devi intervenire. Anche qui, dovendo poi andare a fare delle cose, io quando devo riprendere una persona che sta conciata in maniera assolutamente inaccettabile per un luogo sacro, io mi vergogno, e mi costa, e mi farei ammazzare, e mi dà anche un po' fastidio, a volte mi fa qualche peccato di impazienza, perché dico, ma è possibile che non ci arrivi da solo, ma ci vuole che te lo venga a dire io, ma dico un minimo di buon senso, no? Niente. Ora però attenzione, non è che quello che dico sempre ai miei fedeli, non è che in chiesa non si può e fuori della chiesa si può. Perché quel tipo d'abbigliamento, ritorniamo al discorso di prima, in chiesa rappresenta doppio peccato, perché primo c'è il peccato di nudismo, cioè di esposizione eccessiva del proprio corpo, senza un minimo di pudore, senza un minimo di rispetto. E secondo c'è il fatto che lo fai in un luogo santo. Io porto la veste d'alare d'inverno e d'estate, cioè d'estate certamente che fa caldo, ma uno lo sopporta un pochettino. Dico, tra la veste d'alare e mettersi una cosa decente, pure una magliettina, Padre Pio segava le braccia, diceva così, a quelle che andavano in maniche corte. Adesso dovrebbe essere la sega circolare perpetua. Cioè, io quando qualcuno oggi, diciamo così, sperando che non ce l'abbiano tutti quanti all'inferno, le maniche corte anche in chiesa penso che si possano tollerare. Ma ci sono alcune persone, me l'hanno raccontato a me le persone anziane, che il parroco ai loro tempi non era assolutamente consentito portare le maniche corte. Magari oggi portasse tutte quante le maniche corte, quindi penso che una manica corta non violi i criteri minimi di decenza, specialmente alla luce di quello che accade in giro. Però quello è, come dire, almeno a quello cerchiamo di arrivarci, no? Non andando oltre. La Madonna Fatima aveva parlato di queste mode invereconde, dicendo che avrebbero offeso molto Dio. Ecco. Pensate poi, ad oggi si parla tanto di crisi, ai soldi che vengono spesi, che sono tantissimi, per un vero e proprio culto del corpo, specialmente in Occidente, in nome del quale si sottopone a diete massacranti, allenamenti, come dire, esautoranti in palestre, uso e abuso di cosmetici. Adesso anche gli uomini si sono messi a comprare cose, creme, impicci, imbrogli, si tolgono i peli, ne fanno tutti quanti i colori, tutto per apparire, per oggi deve essere una statua perfetto, senza sbavature, senza cose. Poi però se uno deve fare un digiuno perché è mercoledì delle ceneri, allora quello non si fa. Se devi fare un mese di digiuno perché hai messo 2 chili, lo fai. Se devi fare un digiuno il mercoledì delle ceneri, quello non si fa, d'accordo? Quindi vedete com'è tutto quanto. Quindi ci stanno la crisi, ci stanno i soldi, ma il consumo di cosmetici, stando ai dati, non diminuisce. Palestre, saune, centri di fitness e di bellezza sono sempre pieni di clienti. Come mai? Dicono gli ultimi dati che ho sentito al telegiornale che ultimamente alcune famiglie hanno cominciato a risparmiare pure nei generi alimentari, cioè c'è un calo nei consumi dei generi alimentari, ma le palestre no, eh? Come mai? Pensate adesso l'ultima moda, sicuramente brutta, più di qualcuno, non senza più di qualche fondamento, afferma satanica, sta moda dei tatuaggi. I tatuaggi ormai stanno dilagando dappertutto. Alcuni, scusate ragazzi, dopo uno... Cioè, ci sono delle posizioni estreme. Sicuramente vi posso dire una cosa, le persone che affermano che il tatuaggio è cosa ipso facto satanica, affermazione che è un po' forte, d'accordo, quindi io non la sposo al 100%, ha però un fondamento, nel senso che quando ci sono delle vere e proprie forme di consacrazione a Satana, queste vengono sigillate con il sangue, e quando uno si fa un tatuaggio perde sangue. È anche vero che l'80%, e mi tengo basso, forse il 90% delle cose che vengono tatuate sono brutta roba, quindi che in qualche modo diretto o lato a che fare col re dei brutti e col principe della bruttezza ce l'ha, d'accordo? E anche quando vengono tatuate, come dire, immagini sacre o cose di questo genere, bisogna molto vedere come, dove e quando sono fatte queste cose. Certo, io per questo dico, bisogna fare attenzione, perché per esempio, questo ve lo dico io perché lo so per certo, perché ho letto nei Libri dei Santi, E quando non c'erano i tatuaggi, per esempio, in alcuni monasteri, non vi scandalizzate però, questo per farvi capire che non è tanto il gesto in sé, bisogna vedere le motivazioni, no? In alcuni monasteri venivano fatte delle penitenze forti, nel senso che venivano realizzati in ferro degli stampi, per esempio con la scritta JHS. E poi venivano arroventati e venivano fatti come segno di mortificazione, come segno anche di appartenenza sul petto. È chiaro che una suola di quel genere, che si incide la carne in maniera indelebile, mica fa un gesto satanico, perché l'intenzione e l'azione è rivolta verso Dio, no? Capite, no? Santa Margherita Maria Lacocque, mi raccomando, non mettetemi a farvi queste cose adesso, mi sto dicendo queste cose soltanto per. Se uno si legge la biografia, sono gesti estremi questi, sono gesti di santi, però si legge che un giorno, spinta dall'amore verso Gesù, ha preso un coltellino, l'ha arroventato e si è incisa sul petto, quindi ha caratteri più dolorosi con tatuaggio, l'ha scritta Gesù. Quindi, se una santa persona volesse, non lo so, non per lo scopo stentativo, ma a scopo suo personale, esprimere il proprio amore a Gesù, come dire, facendosi un segnetto piccolo, non lo so, in una zona nobile, non esposta del corpo. Io non credo che con questo compirebbe un atto di culto a Satana, non lo credo proprio, anche se penso che siano molto rari, se non inesistenti, insomma, cose di questo per dire. Comunque, adesso, a prescindere da questo tema, che non è il caso adesso di stare a approfondire tatuaggi, non tatuaggi, eccetera, comunque sia, dilagano, ed è una moda brutta nella stragrande maggioranza dei casi, no? Perché adesso, volendo anche prescindere da questa tematica, cioè, oggi nell'idolatria del corpo si è perso, così come nella pacchianaggine e nella grezzaggine proprio rozza, bassa di certe mode, si è proprio perso il buon gusto, d'accordo? Perché una persona che va in giro con i pantaloncini, col toppino e con le ciabatte, ma è brutta, d'accordo? È volgare, non c'è niente di attraente, d'accordo? Tra l'altro, perché. Il satanico è sempre brutto, il demonio è brutto. Allora, la stragrande maggioranza dei tatuaggi che si vedono in giro sono di un brutto che fanno proprio vomitare, perdonatemi il termine, proprio brutti, pacchiani con colori vivi, grossi, con forme brutte proprio. Quindi, a prescindere dal problema, faccio il patto con Satana o non faccio il patto con Satana, comunque sia una cosa brutta, che ti fa comprendere come questa somalatria, così si chiama, quindi idolatria del corpo, porta a delle cose che te vanno a far diventare un mostro. Ecco. Quindi anziché nobilitare, anche come dire, una certa bellezza del corpo umano, io ho sempre detto, lo dico anche ai miei figli e alle mie figlie spirituali, cioè vivere santamente la bellezza del corpo non è peccato. Cioè che tu ti vesti bene, ma in maniera modesta, è una cosa che Dio vuole. Cioè, noi sappiamo che Gesù andava in giro, ci dicono, con una veste di un certo valore, la veste inconsutile. Certamente non andava in giro, probabilmente non andava in giro griffato, Prada o cose di questo genere, ma andava vestito decentemente. Cioè, capite? Era gradevole di aspetto, prima che lo riducessero come un mostro, ahimè, durante la passione. Tante volte ho invitato gli ascoltatori anche a dire al buon consiglio, andate su Facebook, su internet a visitare la pagina Femminina Modesta ed Elegante e guardate quante bellissime donne, non vi stupite che lo dica un sacerdote perché io posso dire a una donna che è bellissima, semplicemente, come dire, esprimendo una lode per una bellezza esteriore non ostentata, non provocante e non volgare, d'accordo? Io vorrei che tutti si innamorassero di quelle immagini di bellezza, perché sicuramente, come diceva scusate, Benedetto XVI, una delle forme di guarigione e di riscatto della Chiesa partirà attraverso un rilancio della bellezza. Queste cose non sono belle, queste cose fanno vomitare, sono brutte. Quindi, se uno non fosse convinto di tante cose, cerchi di averci un minimo di cose. L'ultima cosa che mi hanno detto. E mi hanno detto pure che è vero, io che ho chiesto a qualche persona che lavora nel mondo dell'estetica, io non, vi dico, l'ultimo costume che si sono inventati da donne, dicono che si sono inventati un costume che ha ridotto la stoffa, quindi restringendo la parte che dovrebbe coprire gli organi genitali femminili in modo tale da lasciar vedere i peli del pube di una donna. Ma voi pensate se, cioè, ma chi se lo mette una cosa del genere? Bisogna andare a chiedere, ma che fai? Chi sei? Ma non c'hai un minimo di buon gusto, di ritegno? Ti sembra cosa nobile da esporre questo? Ma pensate che costumi, no? Siamo stati dalle nostre nonne che andavano al mare vestite, praticamente andavano al mare così come oggi le donne vanno in giro, tale e quale. Quindi con la canottiera e col pantaloncinetto corto a mezza coscia. Io così vedevo le foto dei filmini dei Super 8 di mia nonna al mare negli anni 50. Così vedevo. Poi abbiamo cominciato a accorciare, accorciare, accorciare, accorciare, accorciare. Negli anni 60 siamo arrivati ai costumi interi, che già sembravano chissà che o chissà che cosa. Poi accorcia, accorcia, accorcia, costume a due pezzi. Poi accorcia, accorcia, accorcia, costume sgambato. Poi accorcia, accorcia, accorcia il pezzo di sopra, comincia a diventare sempre più sottile, fino a diventare, come dire, triangolini impercettibili che non coprono nulla. Poi abbiamo fatto il pezzo di sopra, lo togliamo. E poi, tolto il pezzo di sopra, che altro ci dobbiamo inventare? Dobbiamo ridurre il pezzo di sotto dalla parte posteriore. D'accordo? Quindi prima il tanga, quindi chiudi, stringi, stringi, e poi il perizoma. Adesso facciamo il perizoma con il triangolino ancora più corto e quindi sei praticamente nuda. Sulla spiaggia. Adesso, quale sarà l'ultimo passo? Levati pure il pezzo di sotto e buonanotte. Io, uno deve dire questa. Dopo che altro devo levare? Dopo uno veramente arriva a un grado, come dire, di saturazione di tutta quanta sti monnezza. Dice, se vuoi andare e vattene così, allora a questo punto mi dovrete, qualcuno mi dovrà spiegare che differenza c'è tra una spiaggia di un nudista e una spiaggia normale. Questo sotto gli occhi, guai se qualcuno dice qualcosa, ognuno è libero di fare come gli pare, e tu chi sei per giudicare, qua a destra e a sinistra, non c'è niente di male, e tu sei esagerato, bum, bum, bum, eccetera. Va bene, quindi questo è l'idolatria del corpo. Il peccato impuro solitario, altro tema delicato. Allora, bisogna anzitutto precisare alcuni e sfatare alcuni luoghi comuni. Numero uno. Questo non è un problema circoscritto all'età adolescenziale, anche se nell'età adolescenziale può avere delle fasi di picco e di crisi, perché sono numerosissimi gli adulti che lo commettono. Uno. Secondo, non è un problema che sia appannaggio esclusivo o quasi delle persone di sesso maschile. Perché sono tante le persone di sesso femminile e di tutte le età che cadono a volte anche in maniera abituale e compulsiva, spero che sia compreso questa terminologia, in questo vizio. Abituale e compulsiva vuol dire che lo fanno regolarmente e che siamo passati allo stato di vizio, cioè che non ne possono fare a meno. Terzo luogo comune da sfatare, non è vero che questo costituisca una sorta di peccatuccio. Vabbè, sì, forse sarà pure peccato, ma che vuoi che sia. E sarebbe un peccatuccio per quella motivazione, vabbè, ma questo che danno rega al prossimo? Io me ne sto tranquillo, dentro casa mia, da solo, affari miei. Oppure qualcun altro lo minimizza, specialmente in campo psicologico, perché questo, diciamo, sarebbe una sorta di necessità fisiologica dovuta alla tempesta ormonale adolescenziale. Quindi non soltanto che dovrebbe essere normalizzato, ma dovrebbe anche essere addirittura consigliato come valvola di sfogo per stress o per situazioni di esasperazione emotiva. Io vi posso assicurare, ahimè, che a quanto viene riferito sempre, qualche psicologo consiglia queste terapie oggi. Ora, con questo peccato, certamente non è il più grave di tutti tra i peccati impuri, ma è grave come tutti i peccati impuri e non è un peccatuccio. Se uno tra l'altro ci sta a riflettere, tutti i caratteri impressi dal creatore nell'ordine della sessualità svaniscono e scompaiono. Allora, abbiamo visto che l'ordinazione degli atti sessuali è al dono reciproco, ma nel peccato impuro solitario non c'è nessun dono reciproco, perché si compie da solo. Quindi la dimensione intrinseca della sessualità, che è la relazione, viene tolta. Gli atti sessuali sono leciti se sono aperti al dono della vita, ma da un peccato impuro solitario per antonomasia non può nascere nessuna forma di vita. Quindi non è diretto a procreare, è compiuto al di fuori di ogni procreazione, di ogni possibilità, scusate, di relazione, e si riduce nient'altro che ad una egoistica e disordinata ricerca di un piacere basso ed effimero di qualche secondo, in modo totalmente fine a se stesso. Come si conosce dall'esperienza di quanto sia grande l'imbarazzo nel confessare questo peccato, evidentemente tale atto costituisce un evidente avvilimento della dignità della persona, che è stata creata per piaceri, tra virgolette, ben più elevati di questi, e del corpo umano, che viene profanato ed in modo degradante. Quindi il peccato impuro solitario non è altro che una neanche troppo larvata manifestazione di egoismo, edonismo e narcisismo. Vi dico anche che non è affatto vero che questa triste esperienza sia una tappa assolutamente necessaria dell'adolescenza. Questo non è vero. Io conosco persone che non hanno mai commesso questo peccato. Le conosco io. E non ho nessun dubbio e nessun ragionevole motivo di dubitare che possano aver fatto una cosa di questo genere. Non è vero. Certamente che la tempesta ormonale c'è e che ha richiesto un grande dominio di se stesso, ma con l'aiuto della grazia di Dio, la purezza e la castità si possono vivere. Quindi ripeto che il senso di vergogna che provano le persone che cadono in questo vizio e la difficoltà che si ha nel confessarlo, non credo che nessuno si vanti di una cosa di questo genere. Qualche persona un po' depravata può vantarsi dei propri, come dire, delle proprie performance sessuali nell'ambito di relazioni un po' troppo frettolose, ma che uno si vanti di questa cosa io non ho mai sentito, d'accordo? E quindi questa è una conferma indiretta della verità circa l'intrinseca malizia di questi atti. Quindi le tre cose che abbiamo detto, delle tre cose togliamoci dalla testa che sia un peccatuccio o che sia una cosa inevitabile. Non è vero nell'uno nell'altro. Voglia il Signore, e con questo concludiamo questo nostro lungo excursus, per intercessione dell'Immacolata Assunta in Cielo, il cui corpo virginale e risplendente di gloria ci sia sempre di incoraggiamento, di conforto e di aiuto, aiutare tutti e ciascuno a riscoprire la bellezza del corpo umano, che è bello perché è creato da Dio, e dell'amore umano, ricollocando l'esercizio della sessualità solo al suo interno, l'amore umano tra un uomo e una donna, quindi in un contesto autenticamente umano, con un rispetto del corpo che prevede il suo uso per fini santi, la sua cura modesta e moderata, la sua custodia, perché il corpo di chi è chiamato al matrimonio deve essere visto e, perdonatemi il termine tra virgolette, goduto dallo sposo o dalla sposa, e per gli altri deve essere mysterium fidei, mistero, basta, non si sa cosa c'è, perché non è tuo, è di tua moglie o di tuo marito. Ci aiuti anche il Signore ad elevare ciò che di per sé è legato alle leggi umane naturali della riproduzione sessuata, ricordiamo sempre che molto prosaicamente noi facciamo parte della specie dei mammiferi e quindi ci riproduciamo in questo modo, però parliamo di sessualità umana E il fatto che, ahimè, gli animali stiano diventando nostri maestri, purtroppo, perché abbiamo visto che la quasi totalità di loro si unisce secondo natura solo allo scopo della procreazione, cosa che l'uomo dovrebbe comprendere e vivere in un contesto santissimo di amore soprannaturale, di donazione reciproca allo sposo e alla vita che può nascere. Chiediamo quindi che questi gesti possano davvero diventare e o ridiventare uno strumento di santificazione e nobilitazione di chi è chiamato al matrimonio, che assume quindi con gioia onori ed oneri della vita coniugale, ordinandola alla perfetta glorificazione di Dio, all'obbedienza ai suoi voleri e al bene della Chiesa e di tutta l'umana famiglia. Io vi saluto, ragazzi, vi do appuntamento, se vorrete, a martedì prossimo, dove cominceremo, con l'aiuto del Signore, la trattazione del settimo comandamento. Ave Maria.